quattro cause che ci distolgono da questi gradi. Ci sono quattro cause che per lo più ci distolgono da questi gradi, cioè una necessità inevitabile, l'utilità di una buona opera, la debolezza umana, la vanità del mondo. La prima è scusabile, la seconda tollerabile, la terza miserabile, la quarta colpevole. È veramente colpevole per chi infatti per una causa di questo genere, ossia per la vanità del mondo, si ritrae dal suo proposito. Sarebbe stato meglio non avere ricevuto la grazia di Dio che retrocedere dopo averla conosciuto. Quale scusa infatti avrà per il suo peccato? Non potrà forse dirgli giustamente il Signore: che cosa potevo fare di più per te che io non abbia fatto? Non esistevi ed io ti ho creato, hai peccato e ti eri reso schiavo del diavolo e ti ho liberato. Erravi per il mondo con gli empi e ti ho scelto. Ti avevo dato la mia grazia al mio cospetto e volevo prendere dimora presso di te e tu mi hai disprezzato. E non solo hai rigettato le mie parole, ma me stesso, e sei andato dietro alle tue passioni. Ma, o Dio buono, soave mite, dolce amico, prudente consigliere, saldo aiuto, quanto è inumano, quanto è temerario chi ti respinge, chi allontana dal suo cuore un ospite così umile e mansueto. Quale infelice e dannosa sostituzione rigettare il proprio creatore e accogliere pensieri cattivi e nocivi, lasciare ai pensieri immondi e ai porci calpestare così presto quella segreta cella dello Spirito Santo, vale a dire l'intimo recesso del proprio cuore, che poco prima era rivolto alle gioie celesti. Nel cuore sono ancora calde le vestigia dello sposo e già si intromettono desideri adulterini. È una cosa sconveniente e indecorosa che le orecchie che avevano udito parole che non è lecito riferire ad uomo si abbassino così presto ad ascoltare storie e frivolezze, che gli occhi che erano stati da poco bagnati con lacrime sacre si rivolgano tutto un tratto a vanità, che la lingua che orora aveva cantato dolci epitalami e che avevano riconciliato lo sposo con la sposa con parole infuocate e persuasive, che l'aveva introdotto nella cella binaria, si rivolga ora al turpiloquio, a scurrilità, a macchinare inganni e maldicenze. Sia lontano da noi, o Signore, tutto questo, ma semmai per umana debolezza cadremo in simili casi, non dobbiamo per questo disperare, ma ricorrere di nuovo al medico clemente che solleva l'indigente dalla polvere, dall'immondizia rialza il povero. E lui, che non vuole la morte del peccatore, di nuovo ci ricurerà e ci guarirà. Ma è ormai tempo di porre fine a questa lettera. Preghiamo tutti il Signore perché mitighi gli ostacoli che al presente ci distolgono dalla sua contemplazione e in futuro li elimini del tutto, conducendoci per i gradi predetti di virtù in virtù, finché vedremo Dio in Sion, dove gli eletti provvederanno la dolcezza della divina contemplazione, non goccia a goccia, né a intermittenza, ma gusteranno senza fine un torrente di gioia che nessuno potrà loro togliere, e una pace inalterabile, la pace in Lui. Tu dunque, mio fratello Gervasio, quando ti sarà concesso di salire in cima a questi gradi, ricordati di me e prega per me quando sarai il beato. Così la cortina tiri a sé la cortina e colui che ode dica: vieni.